c'è il manuale, no? C'è il manuale di istruzioni in quello, c'è lo schema dell'attacco microfonico, guarda che numero è il down e up. Esatto, perché ti guardi quello, elimini per dire il 5 e il 6 e gli altri li metti nella stessa posizione e te lo vai tu, no? Non te la fotti un dai colori, sto parlando delle posizioni, dei numeri, vai, prendi il manuale, vai. Vai dove c'è lo spinotto e guarda il down e up, che numeri c'ha, così gli hai detto. No, non te lo dice. Nel manuale suo originale non c'è il coso dello spinotto, non ti fa vedere come si cambia lo spinotto, i fili dello spinotto, impossibile. E nell'indice non c'è scritto connettore, non ti fa vedere la foto del connettore, con i numeri, impossibile. Fatti vedere Romeo, alla 48. Aspetta quando entra Marco, lo chiediamo a lui a vedere, mi sembra strano comunque. Che non ti faccia vedere il connettore. E perché da lì sappiamo subito qual è i numeri del down e up. Capito? Si eliminano quelli, si collegano direttamente gli altri. Vabbè, comunque non è un problema quello. Certo che sì, ma il microfono già ci vuole per vedere i numeri. Capito? No, di solito c'è la fotografia del connettore, non girata al contrario. Ti fa vedere i numeri con le freccette, ti indica per dire 1 calza, rosso PTT, giallo, capito, ricezione, eccetera eccetera, e ti dice down e up per dire 5 6, ecco, quello ci deve essere per forza. E invece una foto del connettore in qualche pagina c'è per forza. Ma non ti voglio giochi sul manuale, quante pagine c'ha? Sfogliato tutto. Ah, non capito, vabbè, comunque diciamo a Marco per... Comunque poi già si vede col test, già lo vede Antonello col test quali sono, qual è il down e up, dai. E io avrei fatto di, c'è un problema. Cioè si fa lo stesso l'attacco. Vabbè, è importante che segni qualcosa. No, sono 8,5 cosa? 8,5 kg, 8,5 litri, cos'è? E cosa? Cosa, però? Non c'è scritto niente, solo così, non capisco cosa vuol dire. Cos'è? Mickey Gay? Cos'è? Cos'è? Operazione? Ah, boh, gli americani sono tutti strani. Ma Marco lo devi chiedere, era suo con la radio, non lo so, ma quello del 13,2 volts, così. Continui. Questo è il numero 20. 10%, quindi invece a 10 watt. E vabbè, stai dicendo che c'è 10%. Ma invece se lui batte ne sette 10%, MFM 10 watt. Anche la banda laterale c'è quello, no? È un 2K, ma è vero che è attaccato al camper, quindi non ce l'hai lì. Ah, se l'ha attaccato non tocca, c'è. E come ti aveva detto Marco, che il programma per praticamente lo puoi spostare. Ah, c'è l'ampliamento solo dei canali. E vabbè. Che vabbè lo stesso. Magando. Ma Sabegna. Maestrale a 100 km orari, a Contegemo. Addio antenne allora, a Contegemo. Bisogna abbassare tutto allora, mettere le antenne a terra. Il vento è triste, mamma mia come sto. E non entra ancora. E non sono. Se c'è a casa. Non conviene rischiare, bisogna chiamarlo prima. Ma già lo conosce Antonello, sì. Poco fottuto, non lo conosce, a poco fottuto. Un poco fottuto, eh. Ah, la motocicletta non l'hai vista, Egitto. La motocicletta io non l'hai mai vista. Dove sei? Non l'hai mai vista. Kawasaki. Sacchi. Come no? Quello nuovo. C'è anche Kawasaki l'ha fatto. Vuole. Omaggio di un caro gordo e non mi devo toccare il collo, lasci te la mando, guarda. Guarda il cacchio. divisa, tutto. Via. Si sento. Adesso iniziamo. Iniziamo, tempo bello, cominciare a festeggiare gomme. E feiamo, che so cosa, come si chiama? Che so bauri, no? La devo togliere. Sì, va solo per andare al lavoro, adesso c'ho la macchina, intanto la uso solo per girare, boh. Leggi, io ho capito, già mi hai mandato, è un'altra cosa. Ma questo è della protezione civile, è un temporale, al pomeriggio domani, lunedì 6 marzo, fino alle ore centrali di mercoledì 8 marzo, se poco minori, sulla Sardegna si prevedono 20 dal quadrante occidentale, nord-occidentale, in previsiva rotazione dal quadrante nord, fammi vedere, nord-orientale, anche a noi tocca, con intensità forte, fino a burrasca e fino a Isciuga. Sette, minchia, questo volentino bollettino della protezione civile. Mamma di Turchi, si salve chi può. Ciu, si salve chi può. Mi pare che un'altra gabbettura, va. Mollo lì, rigosi, li zimmi, abbascio tutto. E noi ci prende il piano, sì, mi sta di nuovo più bello. Ah, chiami, sì. E sempre quando devo portare il cane, cazzo. Maledetto. Vabbè. E lui si vede in pieno, ma in pieno ci prende a noi a Tattari, il dottore di Sassari, ciuppa, 100 km all'ora, che se non c'è la bora, a un bacino di Lantelli, sono trovate la Landriga, mamma mia, 100 km all'ora sono un bel cazzo, pucci, la maestrale, no? Così è. Maestrale, nord, nord-ovest, est, nord-ovest, quindi questo è, ehi, di tutto è misciato, però il più forte è il maestrale, e già l'ho letto, sì, e non è nulla, sì, le raffiche sono quelle che fanno danno, mi hai capito? Sono le raffiche, il colpo che danno, la frusta, fiu, tira oggi, tira l'occo, tira domani, tira l'occo, arriva, si bava puma, ehi, ha voglia, assicurate la capigliuria, no, non ho bisogno di assicurazioni, siamo in gaggi nuda, tranquillo che non è gaggi nuda, non ne ho io di, la mia altezza del palazzo, capito, non ne ho io di traliccio, io c'ho un sistema fatto molto, molto bene, da 5 metri, capito? 5 metri, ma che siano 6 metri, no? Ma non c'è niente di che, con 3 a metà e 3 metri, e poi ti ho detto le fasce di nylon a cricchetto negli altri 3 metri, non si muovi, manco così ti ammazzi, il problema sono chi ha i tralicci, deve essere molto attento, quindi consigliato di sempre abbassare, capito? Le raffiche così forti è pericoloso quello, e a me no, non mi fa niente. Aspetta le direttive mie, è un poco male, bene, ho detto a 100 km, ma aspetta le direttive c'ho io. Le direttive che c'ho io non si aspettano, non sono giocattoli, no. Sono robustissime, pick up doppio, number one. Sono un bel robusto. Un bel robusto, so. Si aspettano le direttive, no, Eugenio, non sono ovviamente le antenne verticali, che si può spezzare, ti ho detto, che si può piegare, che si può sradicare, sono tralicci alti, ma anche quelli sono fatte regola d'arte sempre, non è facile buttare giù un sistema di direttive, capito? 45 metri da terra, ma è il palazzo che è 45 metri da terra dove sono messe le antenne. Tu fai 5 metri di sistema, insomma 50 metri d'altezza le mie antenne. Vedi tu, fai tu, fai te o camomilla. E non vedi dove sono. Sono 3x9, 27 al nono, più c'è la mansarda, sono 27 e 3 sono 30, il torrino sono 5 metri, e fate un conto, 45 metri, dai. Lì vedo il mio palazzo sotto, e lì non è buccia di gioco, lì non si scherza, lì non si scherza. Sono a quasi 550, quasi 600 metri sono. Nulla ne ho io oggi, ci occorrerebbe a Santiago 1 qua. Il problema qua sai qual è? Quando piove forte forte, temporali forte forte, siccome oggi ho l'affare dell'Enel, la centrale dell'Enel, dove c'è casa di Antonello, capito? Lì di fronte. E ci sono i tralicci dei 15.000, è un po' ronza, però niente di che, sono a circa 300 metri dal livello del mare, da qua, là sono il doppio, volete oggi, quel volete è brutto, no? Bisogna toglierlo per quella moto, no? L'avevo messo perché mi disimpegnava per andare al lavoro, è meglio toglierlo, no? Se è sotto è dove è? Sotto il porticato, ma ve la foto sotto il porticato. Stavo dicendo, ma mi disimpegnava, capito, per andare al lavoro. Adesso però ne lo tolgo perché è brutta. Ma infatti ne lo tolgo adesso. Adesso ne lo tolgo, la mattina ne lo tolgo, capito? Mi disimpegnavo, la mattina ne lo tolgo, le feo, infatti mai sono accorto. È brutto, lascio senza. Che adesso deve iniziare a correre quella. Capito? Visto che ho l'altra macchinetta, mi sono comprato anche un'altra macchinetta. La battaglia per andare a Trapacos. Lì sì. No, ma la mia deve entrare in carrozzeria la 600, capito? Da Roberto Quadrato. Appena è terminata, glielo faccio anch'io l'impianto. Ci metto le mule e la 48. Capito? La 48 ci metto. Io lo faccio. Mettiamo tutto lì, anzi non metto niente, alla 48 non metto, ci metto direttamente il 4.30. E allora che io non posso morire, patente appresso, licenza, 4.30 ci metto. E lo vai andando, è uguale a Ghiccio, uguale a questo. Allora, c'è 50 watt, c'è di potenza, nella TV, microfono originale, ci mettiamo e via, capito? Quando esce un po' che è andato a rosedire. Guarda, sta scherzando, oggi farò lo gojo, ma lo fai il baracchino normale. Non mai faccio il baracchino io oggi. Non ti voglio portare quel baracchino in macchina. Non ne ho mai messo. Mi metto le V e le U, mi metto il veicolare, quello che ho, capito? Mi metto il veicolare, mi metto le VHF, con un'antenna piccolina, quella della Daimo. A centro tetto, insomma, la metto in coda, non c'è un'altra macchina. Però lo faccio quando è finita, capito? Perché è da verniciare una fiancata, un cavello sfruttato di dietro, e poi lucidarla tutta. E quindi io voglio, dopo, una volta che è finita, lo metto. Nel furgone ci sta bene, sì, l'antenna. Andiamo qua. Scendiamo lì con Max, facciamo un impianto mega galattico di quelli che quando schiaccia la portante si accendono le luci. Allora, se la 747 ne mettiamo un altro, capito? Un bel B300, qualcosa di consistente, cavi grossi, fatto bene l'impianto, e tu invece con questa macchina ti settano il capo al mondo, capito? Ma comunque io, a parte gli scherzi, guarda che piccolino, è un po' più piccolo un pacchetto, un po' più grande un pacchetto di sigarette 747. Io gliel'avrei messo nascosto dentro il cassettino, vedi? Viene un bellissimo lavoro, non si vede neanche. Quando ti serve apri il cassettino, dove abbiamo messo i bulloni, apri il cassettino e lo accendi. quando non ti serve lo tieni spento dentro il cassettino, non cambia assolutamente niente. È per il camper. Quello non c'è bisogno di eliminare il pulsantino, glielo mettiamo in più perché devi rovinarlo. Allora, se lo vuoi, si mette i due fili, accende e spegne e si porta vicino al cruscotto, capito? Quello è una fesseria. I due cavi si fanno entrare da sotto, uno che entra, uno che esce, no, del baracchino dell'amplificatore, e lo tiene dentro il cassettino, capito? Tanto non scalda niente quello lì, tutto a pugno. No, io ho un agio, già gioco, non ne ho. Dopo pareggi, penso che ce l'abbia la GBC, capito? Costava 40, anche 50 euro mi pare, boh. Ah, una 747 a MOSFET, no, non è dettagino. È un ottimo lineare quello, ma stai scherzando? Assolutamente, quello va benissimo. Quello tu le dai i minimi watt, capito? Anziché tenere tutta la potenza al massimo del baracchino, la tieni a minimo quando sei in camper con il lineare acceso e c'hai sempre quei 50, 60, 70 watt. E lo sai in dire la carì, minimo marevitti con il lineare, marevitti nuovi. Perché? Io l'ho detto, non c'è power, la regolazione del power. Oh. Ehi, vabbè, ma mi pare che comunque quello lì tenga sino a 7-8 watt, comunque non distorce perché c'è il finale a MOSFET, quel lineare di capito, molto meglio di quelli della ZG. C'era anche Gianni in macchina, mi chiedeva Gianni, ha tanto va bene, non credo, no, c'era il baracchino, è un bel forte quello di Gianni, modificato quello di Gianni, capito, cazzo non va a 5 watt sui Gianni. Due Gianni arriva sino a 30 watt come potenza. Tu devi avere una potenza minima per recitare l'amplificatore esterno. Se l'amplificatore è previsto sino a 10 watt ne dai 8 per dire. Se è previsto a 5 watt ne dai 3 o 4. E tu sei a posto. E lui eroga la potenza d'uscita dell'amplificatore, però capito? Il baracchino recita l'amplificatore. L'amplificatore dà tutta la potenza. No, no. Viene sommato solo l'eccitazione, cioè quello che tu ecciti a lineare, poi lineare eroga quello che dice lui e boh, non compresi anche quelli del baracchino. È utile oggi, utile, tu dici no, è utile, perché se sei in zona più lontana non arrivi, capito? Non arrivi. Invece tic, pulsantino e vamos. E vedi che ti sentono, perché intanto lì con quell'antenna non puoi mettere un lineare più grosso, devi metterne uno il 747, capito? Che era intorno ai 60-70 watt, sotto si giù l'antenna, oh 50 watt, e allora devo trovare un linearetto che dà 50 watt, ma il 747 non dà 50 watt, ne va anche di più, capito? Però regolando il baracchino all'ingresso del lineare si può portare che dia 50 watt giusti e sia a posto. Se non c'è il pulsante esterno ci avrà qualche regolazione interna, bisogna leggere il manuale. Poi Marco già lo conosce col baracchino, non ti preoccupare, se tu decidi di prendere il lineare prendilo, poi in una maniera o nell'altra già glielo regoliamo, già se fa l'impianto fatto bene. Certo di cagone che e vabbè, non si apre niente, comunque tu prendilo, intanto quel lineare mi sembra che sia a 10 watt, sia a 10 watt l'ingresso, capito? Il tuo se ne sta dando, lo misuriamo prima, guardiamo quanto ne sta dando, se ne sta dando 8 è perfetto, va bene. Giuppa, giuppa, giuppa, Marco va in lettargo, attento, Marcolino Condo. Marcolino Condo, ratta pignata, pignata, ratta pignata, ho già pignata, infatti l'hai chiamato Gioi Gubinudo, yes, lui è Marcolino Condor, noto Gioi Gubinudo, ah pinnato, è strano che non ancora non si sente, non si sente neanche Gianni, attento Gianni, no, lavora di sera no. Oggi chiamiamo con la serenata. E c'è la canzone del Guccini. Ah no, ma adesso qui. Anche voi sul 31 avrei una mostra di radio. Il giorno 31 ti porto a vedere una mostra di radio. vado io al passo, a Haiti, le muovo gambe, vieni qua, no? Poi andiamo. Capito? Mi hanno invitato, no, ti portare anche qualche con altro. Ti posso vedere, faccio vedere una serie di cose, così ti appassioni ancora di più. Allora è Bulma, anche che devo mangiare altri, ripeto, a Peppino. C'è un problema, Marco? Lascia il bellino, cosa organizza Lucino? Ci vogliono fondi e ci vuole il posto per fare una manifestazione del genere. Qua ci sono collezionisti anche dal continente, capito? E come? E tu ti aspetta a andare a mangiare al cane. E c'è più cantenne, ma dici tu, guarda che cantenne. Sì, anche quelli sono i nomadi. E se assomiglia molto a quella dei nomadi, come si chiama? Forse l'accordo. Bello. Io ce l'ho il CD dei nomadi. Poi quello vecchio. Non so se ne hanno fatto un bel di canzoni. Hanno fatto qualcosa così. Erano bancari, mi pare, dove erano? A Ossi. E non sta piovendo lì da te, genio? Qua poco ci vuole. Non sta già piovendo. Forse sì. I sciupedini. Che ora sono? Sono le 10 oggi. Ma sono ancora in Cattaresci. Pensando a questo momento orografico che domani è 100 km orari, mamma mia come sto, una bella giornata invece domani, tutto nord, anche la parte settentrionale però, occidentale e settentrionale c'è scritto, si asciughe, è brutto con le geografiche così, è brutto, dobbiamo stare molto attenti ai sistemi antennistici, però non si sa se è maestrale, ma il vento così forte di solito è maestrale, no, oggi anche il Greccale è così forte, però in questi giorni sta tirando forte a Libeccio, mi sta distruggendo il poggiolo a Libeccio, perché c'ho le palme che sbattono tutte sopra di me, capito? Cosa c'hai? Le palle che sbattono? Le palle che ti cubiano a capo, le palme. Ehi, buonasera a tutti, dai. Scusate che sto lavando roba nel lavandino, dai, a dopo. Ma che ti sei sul cubinato? Sto parlando, ok, guarda, sto parlando. Ma dite? Adesso c'è mia moglie che ci blocca l'immagine. Televisione, non ci ho mai bloccato nulla. E anche non lo gioco quello del cuore. Non ho mai disturbato niente. Mai, assolutamente. No, adesso abbasso, vedete. Adesso ho abbassato la potenza. Che cosa vuoi che ti dica? No, non lo so. Aspetta un attimo, G. 1, 2, 3, prova. Vabbè, e cosa vuoi fare? Kappa. E così. Mai visto Dio con 5 watt. Ecco, latte faccia 5 latte. 5 latte, 5 latte. 5 latte scala a 20. Ehi, chi era l'altro interlocutore? Era saturissimo e basso. Non sarà Gianfranco, no? Saturissimo e basso? Non si fa nessuno, perché? Ehi, sei in FM? Sei in FM? Vale, tu sei? Santiago 9. Valerio arriva 8 massimo, no, anche 8 e mezzo, la verità. Oggi ne ha fatta una delle sue, mi sentivo un odore come di bruciato in camera, vado a vedere in cucina, c'era un fumo che si tagliava col coltello, aveva carbonizzato la carne, il capocollo, un fumo, ma proprio denso, mi. E' bello che non apriva la finestra, l'ho dovuto aprire io, se no le stavo lasciando tutto affumicato, bubù, perdendo colpi. Vedi che c'era lui, adesso sei tu nel femmine, no? E vabbè, cosa che succede? Io sono a 10 watt, 5 watt, 10 watt, dai, già mi senti lo stesso. Mi sto dando il primo guarda mia moglie, cosa che non è mai successo, non venite fatte, no, siamo entrati con il PL. Ehi, va bene, no, con 5 watt no, se metto a 20 watt, 30 watt sì, non ho capito perché. Ehi, sì, ma non è mai successo, non lo so. Cazzo di gruppo a 5 watt, che la miseria, anche stato per balla ci vuole adesso. Prova a cambiare canale, andare sull'1, sul 40. Lo fa. Roba. Non mi alloci, dove ti dico. Che voglio ti dica? Ogni volta mi chiama, così mi succede qualcosa. Sarà bagnata la centralina o l'antenna tua, boh, perché io mi sono bagnato fuori, deve essere piovuto prima. Non esiste pioppa e dovrei stupare il mio televisore, ma stai scherzando, se non è qualcosa al decoder della TV, già l'avevo fatto un'altra volta lo stesso. No, ma ci abbiamo il canto centralizzato alle volate. No, è sicuramente qualcosa nella televisione. Vabbè, non me la potevo. Cambia canale, perché guarda il primo, guarda il 5, siamo qui giocati, ti occupava con la televisione. No, Rai 1 lo fa. Solo Rai 1. Rai 1, 1, 1. Italia 1. No. Qualche volta l'ha fatto. Sono nuovo io già, spesso avesse il televisore, sta andando a farsi foto. E c'è il mio vicino che c'è la finestra aperta, il televisore, ora. Comunque pare che ci hanno dei canali adesso da Bruvis. Ora, l'ho catto. Ora. Mi sento il mio vicino. Ora. Non problemi. Piovendo sta Alghero, va lì. Sicuramente sta per arrivare. Non ci vorrà molto arrivare l'acqua, sicuramente. Oh, già c'è, già c'è, dici che metto. Vai, 24, 25 watt, va. Vediamo, mio vicino già dice, ora, ora, ora. Ah, tu? Non mi piace bloccare. Ora, ora, ora. Aspetta, aspetta, lo vedo da qua. Dici, praticamente mi telefono a Pierpaolo. Ora, ora, come me. Sì, sì, lo schermo è blocco. Mi Marco dice a fare, Marco. Non assai però. Non ho la mano ferma più. Scusate, sto mangiando, dai. No, no, qua si fa o gratis o niente. Poi togliamo a Gianni. Vai a Gianni, vedrai, il problema è risolto. Cosa? Vai a Gianni, ti ho detto, il problema è risolto. Disturbatore di televisioni. Ui. Ma quando è che lo levano Rai 1 da quel cacchio di VHF? Tanto vale mettere tutto in UHF, ormai lo spazio in digitale c'è. E si ostinano a tenerlo in V. Non ho capito perché. Sono preoccupato, sì. Non ti piaceva. No, non sta facendo più. Infatti ho levato una nuova potenza. Saluti. No, sto scherzando. La testa aperta mio vicino. Non mi stupo nessuno io. Adesso il mio televisore, già un'altra volta l'aveva messo a posto di Turio, ogni tanto va in tilt, capito? Ma ormai è il decoder, cos'è il decoder esterno o interno al televisore? No, decoder interno, con la scheda, c'ho anche la scheda premium io attaccata. E meno ti riesci ad arrivare, ma niente, Surigu. Surigu alato. Surigu minuto. E me va lì, cosa ci racconti? Grazie, grazie. Oggi pesce. Oggi si è mangiato il pesce, domani si mangia il gatto. Gatto mangia pesce, pesce mangia gatto. E abbastanza. E dipende, dipende da cosa compri. Ce n'è dalle misure, ce n'è dal materiale, ce n'è tutti i tipi. Ma un traliccio minimo parte da 700-800 euro. No, vabbè, fai 300 euro a sezione, dai. Costano. Costano, però sono efficaci per chi ha il giardino, per chi ha posto per metterlo, capito? Io qua non mi interessa mai traliccio, c'ho 40 metri di palazzo, ho voglia di traliccio, quindi abbiamo adottato un altro sistema, capito? Comunque, Marco, eia, lo sai dire cosa fanno due poliziotti dentro l'armadio, sì? E cosa fanno, boh? Pensaci, devi ragionare, tu sei ragioniere. Ma io sto mangiando, ho la mente occupata per il cibo, dai. Tu lo sai, Vale, cosa fanno due poliziotti dentro l'armadio? Eia, ci arrivi se ci pensi. Due poliziotti del 113 dentro l'armadio, cosa ci fanno? Fanno la squadra mobile. Mamma mia, come sto? Mi subito epoca, Valerio, vedi, vedi cosa vuol dire avere il lineare, vedi cosa vuol dire? Sì che ti senti. Però sto cominciando a mettere lì a casa sua un bel VV131, un centinaio di watt, lì a fianco al baracchino, tranquillo, quando serve tic. E un altro invece a transistoro nel camper, capito? Alghiero, canta le canzoni oggi a Valerio, io, della chitarra. Voglio andare ad Alghiero, a me per canti senza accordi, faccio un non sarà per la base Gladio, no, il QRM, eh? Cosa oggi? Non sembra, c'hai la voce come Marco, come si chiama, quello che ha di Arità. Come si chiama quello che ha vinto Sanremo? Marco Carta. Ehi, ti assomigli pure a Marco Carta. No, Ah, io, così no, chi c'è orecchione? Ho visto, Burueto, ai ai ai, quanti sardi che stiamo perdendo, mamma mia, come sto, vabbè. Beh, vale, cosa ci racconti, io, noi anche, una storiella, aspettami Marco quando adesso finisce di mangiare, ci racconta quello che ha mangiato, se era tutto buono, ehi, solo quello fa, dobbiamo stare attenti a altro anche. Ehi! Cosa deve tenere di peso quello, Eugì? Cosa deve tenere di peso quello? Guarda, mai hanno fatto lo scavo l'altro giorno, ancora l'hanno gettato, ma ci vanno 2,5 metri di calcestruzzo, ho fatto il conto, con gabbia, tutto, poi ci va il pilastrino con la piastra, che escono i tirafondi per appoggiare la contropiastra sopra, capito? Tu immaginati il lavoro che c'è, non lavoraccio, lascia per... lascia perdere. E beh, io già mi sfascio la facciata per mettere le antenne, è chiaro che sono per forza obbligato a fare una cosa del genere, ma io 3 elementi ne ho ordinato, cosa pensi ne abbia ordinato? 2, 4, 6, 3 elementi da 2 metri, non da 3, da 2, 6 metri e boh, perché da lì non c'è bisogno di niente, 6 metri vedi il mare. Vai che c'hai 2 antennine di plastica sopra, ma le fate vedere l'altro giorno. Ah Marco, questo è, che bello che sono. Di plastica tengono il vento, bellissime, flettono, hai visto quanto flettono? Spiega, ma no, flettono è giusto, dai. E sono belle solide. Bene, ho detto il QRM non sarà la base gradi o no? Ah, vabbè che non esiste più. Allora la base gradi era Olmedo. Era Olmedo, c'erano delle log periodiche, minchia, venivano da 20 metri di tracci l'una, quanto erano grandi. Te le ricordi quali quelle log periodiche che c'erano a Olmedo? Della base di Gladio. Ormai ero subito dopo la Quadriflor, in quel campo grande che c'era. E non so, poi l'altra, la base principale era porca miseria. Ehi, dopo tutto quella mi pare. La Speranza, bravissimo, ma meno male c'è il mitico Gianfranco che. Oh, ma non erano uscendo dal Ghero per andare verso Bosa? E lì c'è la Speranza, giusto Gianfranco? Ciao, buonasera. Sono io, Eugenio, Guata Pignara e Valerio D'Alghero. Assolutamente, ma io mi ricordo che c'erano 2 log periodiche di antenne enormi, ed erano lì a Olmedo dopo la Quadriflor, così è. Esatto, perché io facevo servizio a Monte Agnese, allora, quindi le vedevo spesso, passavo da lì proprio, dalla cantoniera che c'è lì, su Righetto. E quindi le vedevo, ma enormi, minchia quanto erano grandi, te ne ricordi Valeri? Minchia lì c'era un dipolo, un giorno mi stavo fermando, ma me lo stavo staccando, da solo c'era tutto il filo spinato, c'era un dipolo minimo, era 100 metri, te ne ricordi Gianfra, partiva da giù dal cancello fino a su, poi c'era questo palo alto ed era agganciato lì sopra, però scendeva a 45 gradi, solo un braccio era. No, ma poi c'era una durante quella logoperiodica periodica che c'era ad Olmedo. Mamma mia, quanto era grande, pisciughe, allucinante, ogni antenna, mamma mia, da paura era, mi fermavo a guardarla a strada, figurati da sotto, enorme. Caro Eugenio, riprendi. Ne ha uno Costanzo anche, molto molto bello, l'ha mandato a me. Molto molto bello, però un po' di più, capito? Però se li valgono, perché con le modifiche che ci sono, a parte la radio che è fenomenale, l'8001 è bellissima come baracchino, ma poi modificato è eccezionale, capito? Perché sono modificati proprio dalla casa, cioè mandati in continente, fatti fare, sono una bomba, uno spettacolo. Oh, manco una nagio di smitterlette. No, mi piace. E bisogna vederlo, come provarlo, sapere se funziona bene. Quello Costanzo è nuovo e funziona bene. Nuovo, garantito, ho capito. Funziona molto, molto bene. E quando lo senti dire la Costanzo, lo straniero, glielo dici, te lo fai sentire, vabbè, si può che bello, ma bello però. Quello già si può vendere, tranquillo. Ho detto, già si può vendere l'Uranus. Che un base da vendere, 100 euro, un bel base, capito? Un bel base. Che base è? Buonasera. Ciao, dottor Ruth. Un base è bello, non è brutto. Non è brutto, no? Compri, vabbè, allora è un base. Capito? Un base con le bande laterali, 40 canali, Lafayette, Telsat, SSB 140, a Marco che non ne ha, Marco può fare un negozio di baracchini, ciao, già avanti. A me stai dicendo qua, buonasera, lo so già, quello di Massimo. Ahia, ce l'ho io in vendita, è molto bello, nuovo, c'è dei mito celesti, è bello. Bello, nuovo nuovo, messo sopra il DAC, va bene. Ma attacco microfonico di quelli alla spacchiamandoccia, vero? Purtroppo sì, microfono normale, ma io se non lo tengo io, me lo cambio quel connettore, lo metto la femmina a 4, faccio il connettore a 4. Sì, mio genio. Oh, non ci vedo io, Eugenio, fatelo fare da Alessio, non ci vedo, no, mi stavo facendo lavoro a casa, non riuscivo a vedere la vite per avvitare. È un casino, ma con quegli occhiali riesco a vedere, perché non deve essere mai devo cambiare. Ho detto, dillo a Gianni se te lo fa piano piano. Ascolta, noi siamo anziani, lui chiama Antonello Alessio, lo cerchiamo e sali un attimino col camper e te lo fai fare da lui, dai che già lo facciamo, non ti preoccupare. Vittorio, ma infatti già lo facciamo, ma c'è comprato il connettore, lo facciamo. Ciao, mi andiamo da Valerio, ci prendiamo un caffè, ce lo facciamo fare da Valerio. Vale, un connettore, ce li attacchi, ce li saldi 4 fili. Ah, vieni tu? Io vedi. Ci abbiamo già la persona, capito, Vale, non abbiamo problemi noi. Tu mi dici cosa devo fare e io lo faccio. Allora, Valerio c'ha tutto. Il microfono originale e ti attacca i fili come quello originale. E tu stai cantando come i nomadi, capito? No, alla Landriga ci vediamo lì, prendiamo il tavolino, ci mettiamo sotto l'albero. Ah, perché tu sei convinto che Valerio se deve scendere la sassa e ci crea problemi. Non è come Marcano che si stava perdendo a Carboazzi. Cazzo già, lì ci dove vai in macchina. Ma già mai ci metti, dove abiti? Ed era dietro di me dove c'è la farmacia. Sì, ma lo volevo girare, boh. Anche quando è venuta a casa ci è perso. Tigre contro tigre, mi dì la Sandro, vabbè Sandro ormai non c'ha più tempo, è sempre impegnato, se no 5 minuti ci mette Sandro e non imbaglia, lui c'ha un culo con i microfoni allucinanti. Ciao signori, buonasera, guarda per lo te, per fare il numero 10, ma guarda mi manca perché può discorreggiare. Beh, sanno già ci vede, sì. Non ha problemi, ma è sempre fuori, è sempre impegnato. Devi pizzicare magari un sabato mattina che è libero, una vecchia mattina, 5 minuti, te lo fai fare, capisci? Se no te lo metto, sali a Sassari, dove fa Antonello Alessio, sali a Sassari e te lo fa Antonello davanti, dai. Ma scusa un attimino, oggi di che ricordo si tratta? Del tutto, cioè io i miei microfoni me li sono sempre fatti io, ho trovato la pediatura col tester e poi si salda, capito? Me li sono fatti sempre io, dai. Adesso qual è stato il favore, siete tutti ciechi, dai. Allora non ci credo, vabbè, non ci credo, ma io non le faccio perché non ci vedo già. Questa parata perché non lo fai tu, Marco, visto che tu lo sai fare? Io non gli ho detto parli, io è vero che non ci vedo, e poi quando devo fare io riportalisce, chiedere a lui, non portalisce e parlo. Ehi, no, quando sono con gente mi emoziono, mi trema la mano, finché sono da solo in casa, con calma riesco a farlo. Già te lo ricordi, no, che mi tremava la mano dall'emozione? Pomponio lo fa, però fa le saldature brutte, tutte a cazzo di cane le fa, perché non usa il coso, il flussante Pomponio, capito? Usa l'attac. E rimette il nastro rosso. No, usa l'attac. L'attac, come flussante? Mamma mia! No, oggi, perdete, Dio caro, fai come ti ho detto, adesso cerco Antonello. Se Antonello mi dice di salire, ti faccio salire 5 minuti e tu c'hai il microfono a posto, tutti bene. Non domanda nulla a nessuno. Ma sei a me che mi fa il microfono? Ma mi ha fatto quello della ICOM, quello della IAESU, che ho fatto delle inversioni, il MB più 4, l'MB più 5, tutti Andrea me li fa, già, Andrea Oceano, Kojak, si ascolta, Kojak. Eia, non è tutto che andremo a fare. Quando da Edo, c'è Boggia, capito? No, poi c'è un sistema, lui c'è un mossetto che mantiene il coso, capito? No, io non c'ho niente, c'è salato le buone. Mi fa sempre lui, quindi, se Antonello non lo fa, me lo dai e... Andrea, una vecchia mattina, 5 minuti, me lo faccio fare. Però non è solo questione di saldatura, però Claudio, devi sapere a cosa corrisponde la piedinatura del 1000. Io avevo lo schema del colore dei fili, ma l'ho perso. E poi sapere la piedinatura dell'apparato, almeno quello. Oppure vai a tentativi, io vado a tentativi, col tester cerco prima la ricezione, di conseguenza trovi la massa, poi la portante e poi la capsula microfonica, capito? ma Eugenio, scusa un attimino, se non sono troppo curioso, ma ha apparato un omicidio penale. E allora il secondo 440 non va in CP, ne ha 8 in casa mia. Ecco, venga, guarda, a me perché sono un operatore, una persona da fantasia, da tanta cosa. E non te lo dico. Se c'è qualcuno che mi vuol dire spiccia quanto a me, Claudio, dico. No, aspetta. Alan 48 XL Multi. Marco, già siamo messi bene già. Sì, cioè io lo so fare, ma non lo so fare all'istante. Mi devi lasciare i due microfoni e l'apparato, anche per provare. Up e down sono solo una resistenza, capito? Quella apparecchia ha bisogno del filo della ricezione. È una fesseria da fare, dai, però mi devi lasciare tutto. E devi togliere di nuovo l'apparato. Vabbè, dalla staffa, sganci la staffa. Visto che nessuno si fa avanti. Ma Massimiliano già te lo sa fare, bulldozer, se vi incontrate, ripeto, io lo so fare, però devo avere il baracchino e il microfono originale, l'installatore ce l'ho, lo stagno buono ce l'ho, c'ho tutto, devi avere pazienza però di lasciarmelo, perché io col tester devo trovare tutto, devo trovare la ricezione, la massa, il PTT e la capsula, una volta che so quello, boh, fatto. Oh, un attimino che sono al telefono, arrivo subito. Eia, e quindi vedi tu, dai, vedi tu, anche Massimiliano lo sa fare, dai, però bisogna vedere con chi ti incontri prima, capito? Giulia, c'ho questo naso gonfio oggi, non riesco a respirare, non so perché. Ho la mucosa gonfia, non ho fatto altro da mettere Rinazina, te lo stura per un'oretta e poi di nuovo ritorna gonfia la mucosa, non riesco a parlare nemmeno oggi. Ah, io Gianni, faglielo tu. Gianni, faglielo tu che lo so che lo sai fare. No, che elettricista ne sa meno di me. Ne sa meno di me. Io te lo so fare, però te l'ho detto, me lo devi lasciare. Cioè non posso farlo al momento, anche perché qua è un bordello, questa casa è un bordello, quindi lo devo fare con calma col tester, capito? L'ho già fatto altre volte, dai. Eia. Eia. Vabbè, vedi tu, dai, io sono disponibile, sono disponibile. Se lo spinotto ce l'hai già, sì. Eia. Eia. Quando vuoi, se nessuno te lo fa, te lo faccio io, dai. Qua sono tutti legna verde, chi non ci vede, chi è monco, chi è cieco. Marco, io sono stato operato a sedere giù, Francisco. Ma quando? Quando? Sono stato operato. Due anni fa ho fatto l'ultima operazione. Per cui, ma non devo giustificarmi, cioè l'ho detto quello che ho, allora se ci vuole per me ci credo, se no è lo stesso. No, no, ma Gianni lo sa che scherzo. Lo sa che scherzo, che non lo dico veramente, dai. E ma tu sei buon in buco, sì, cazzo. Non rivolti a quei cucini. Non è che non lo voglio fare, a parte che io molte volte vado alla Rice perché non ci vedo bene. E sbaglio, non vedo manco i numeretti che ci sono scritti. Niente, non vedo nulla, non a casa faccia qua. Molte volte la porta lì, c'è che non c'è, addirittura c'è un mito, se me lo puoi fare anche a me, nel momento del DMV c'è il mito, te l'ho anche detto che lo dovevo fare, te lo ricordo. Eia, è che Antonello c'ha un occhio che guarda l'altro, non so lui come faccia a saldare. No, ma anche Massimiliano glielo. Oh, oggi, ma tutti i diri ce la facciamo, dai, fregate. Oh, io vabbè, dai, ascolta, forse, probabilmente, probabilmente, però non sono sicuro. Nell'eventuale possiamo sentire giovedì o venerdì, te lo so dire, sabato dovrei essere libero. Se sabato sono libero, sabato mattina. Vieni qua a casa, 10 minuti lo facciamo, però dopo devi pagare la colazione. Ma io so che non so che cosa sia una colazione, se vuoi che viene anche Claudio, no? Pranzo no, che sono io che non posso mangiare, devo rimanere a dieta, devo rimanere. Ok, dai, faccio sapere, ti faccio sapere, io probabilmente sabato dovrei essere lì, per non so dire di qui, dai, ci mettiamo vicino per farlo, però devi portare anche l'apparato, eh. Che l'hai questo pranzo, che l'hai? Ah, guarda, non c'è bisogno di questo, è solo di altre marce. Non c'è assolutamente bisogno di aprire nessun paragrafo, capito? Va bene, ho sentito Valerio. Ciao Valerio, buonasera, con la speranza che mi ascolti. Ciao carissimo, buonasera, ehi, come vai, come va? Rimando bene, con piacere, carissimo, purtroppo troppo fini di trappato, tutto lì. Sono basso, e forse perché sono al piano inferiore, sarà per quello. Ehi, va bene. Ok, dai signori, rimango in ascolto, faccio l'ascoltore, dai. Vi seguo, fatevi un buon fine di serata, con tutto. Dai, oggi o ti faccio un squillo o ci sentiamo per radio. Vabbè, tutti morti. Riprendi Elio Piuma. Ho sentito che Corrado l'hai sentito, dov'è la scena? Ma io ho sentito che c'è un pranzo, una cena in atto, dove quello che ci sono il microfono e ne andiamo tutti a mangiare, poi il problema. Adesso per una saldatura deve offrire a tutta la 27. Oia, sì, Sandro ce lo sa fare, poi te l'ho detto, basta avere un tester. Io ripeto, ai miei apparati gliel'ho sempre fatti i microfoni, sia il DM1000, sia l'MB più 5, sia l'M93 da Palmo, sia l'altro, come si chiama, l'F10 Alan, tutto io li ho fatti. Certo, non faccio saldature perfette, ma non le faccio fredde, vengono lo stesso bene. Magari non è il flussante adatto, io uso quella cosa orribile che si usava una volta, la pasta salda. Mi hanno detto di pigliare il flussante no clean, no clean, così si chiama. Gianfranco, ci sei? Io torno subito, me ne uscire un attimo, ok? Buon viaggio. Marco, dico una cosa, se non ricordo male, sarete 45, adesso non mi ricordo, però mi sembra di sì, c'è casino tutto. Chi se lo ricorda? Mi pare di sì, perché ha quello, sì, è anche amplificato, quindi prende l'alimentazione da lì. E in più ha il tastino up down. Se non ricordo male dovrebbe avere. Eia. Ce l'hai un attimino, però per un attimo. No, è seppellito sotto gli altri baracchini. Non lo sto più usando. L'ho fatto provare a Gianni, ma Gianni usciva a cupo. Usciva come impastato me. Invece io esco meglio di radio, perché ho la voce più acuta. Era tutta regolazione, il signor Gianni non riusciva a riguardo, diciamo, la sua tonalità, bisognava regolare, adesso non lo so se tu il microfono l'avevi aperto e hai portato al massimo le vetrine. Ma nel mio, nel Omega Force, sì, tutto a manetta, trimmer interno della modulazione M, trimmer interno del microfono, però Gianni usciva a cupo. Abbiamo fatto la prova poi con Claudio, il giorno dopo io uscivo meglio, ma Gianni usciva così. Sì, però bisognava regolare. Allora, essendo un microfono, diciamo, già piatto, come tu sai, si prende la corrente, diciamo, da parte, quindi c'è il micro che si fa con la spina, con il banco fuori di quel primo, diciamo, da aprire la migliore. Nel caso di Gianni bisognava diminuire fino a quel primo e poi agire sul macchino, fare un po' affettarsi una pista. Io so che chi ce l'ha messo a manetta tutto e funziona. Ha provato anche a abbassare il mic gain dell'apparato, nulla, proprio erami così. Non so come descrivertela. Soffocatami. Ti dirò di più, è come se i trimmer fossero tutti chiusi. Invece sono sempre stati aperti i trimmer. Va bene. No, dimmi. Sandro, perché mi hai chiesto dei 6 pin? Per sapere se sono simili a quell'apparato di Eugenio? Esatto, sì, dovrebbe essere simile. Vabbè, ma non ce l'hai la porrata di mano, non ce l'hai la porrata di mano, quindi niente da fare, dai, tipo, ma che mi sta ricordando un attimino, adesso non mi ricordo, mi finisce perché l'uno era l'uno, adesso non ricordo male, io mi ricordo, io ce l'ho avuto con l'apparato, l'avevo fatto un accorgimento, perché la lineazione numero 6, questo me lo ricordo. Sì, è quello centrale, Sandro, è quello centrale. Infatti raccomandano sempre di stare attenti anche al microfono colleghi, perché potresti rovinare tutto. Solo che vedi, quello è un Magnum, quello di Eugenio è un Midland, quindi potrebbe essere la 6, ma anche diverso come cavetti, capito? Io lo so fare, magari essendo a 6 poli bisogna stare più attenti, sai, più piccolo. Io lo so fare, dai, poi se riesci a farglielo tu, faglielo, trova col tester le corrispondenze, che sono sempre quelle, te l'ho detto, cavetto di ricezione, la massa, la portante e la capsula microfonica, e poi è fatto. Quelli due li devi scrivere, perché poi mantenete la penale per le gambe o altro, e innanzitutto non ce li ha, quindi a lui serve soltanto, diciamo, il PC e modulatore, quindi sono quattro pin che bisogna correggere, no, è che dici, e la riperde del 6 che arriva in campione, quella non completamente isolata, non devi toccare con lì, perché tutto lo spero. Deia. Però lì il microfono non credo sia alimentato, come si chiama? Alan Excel Multi. Il pin centrale non alimenta, cioè non è amplificato quel microfono che io sappia. Vabbè, comunque basta non toccarlo quello. Vabbè, dai. Chi ci è rimasto? Gianni, ci sei? Gianfranco, ci sei? Tutti morti. Chi è? Ciao Natteri, sei più forte di segnale, non ti avevo riconosciuto. Sì, 8,5 modulati quasi 9, dai. Questa cosa gonfia, guarda. Non so come fare. Va bene. Ma siamo rimasti. Claudio è andato non so dove. Gianfranco risponde. Gianni lo risponde. E io appello, chi ci è rimasto, dai. Gianni rispondi. Non ne fare spese natali, dammeli a me i soldi. Oh raga, io vado a portare il cane, dai. No, se scendo giù un attimino a ascoltare la macchina. Vado a portare il cane, sentiamo dopo. Ciao a tutti. Ciao Claudio, dai, se siamo qua poi sentiamo dopo. Ciao. Sì, sono subito 10 minuti, a dopo. Natalino, stai sovrondulando gli altri che tu non senti. Oi. Questa antenna che sia però, ormai sono passati 3 mesi da quando l'hai detto, Natalì. Vedo che sei suonare la chitarra, Eugenio, beato te. Oh, previsione meteo per domani della protezione civile, 20 raffiche a 100 km orari, occhio alle antenne. Sì, Claudio, Giannini scendono tutte, che sono tutte attaccate lì. Ok, domani mi leggo all'antenna, capito? A me prima di scendere nelle antenne, come hai visto, mi scende il passo. Non lo temo io, a 100 km orari, tranquillo. È già stato fatto tutto quello che c'era da fare. Occhio agli altri invece. Abbascetti le antenne. Eia. Questa la mia ancora a 100 orari, forse non li ha provati, dai. Sarà un battesimo interessante. Ok, riprendi Eugenio. La mia è già crollata da tempo. Non manco tirate, c'è una lamanta, vai io con quel tubo da un po' di cervello di acqua che c'è, giù. È quello, il sistema mio delle antenne, Marco, stai pur certo che già non ne farà, tranquillo. Mi può ne farà latte, ma lo mio già non ne farà. Dai, vado a portare il cane, ciao a tutti, a dopo, ciao, faccio, chiudo, compro, vendo. Ho sentito che sta venendo una stazione base, e di chi è quel carruccio? Il mio, perché, ti interessa? Ma che stazione base è? No, per saperlo. Lafayette Telsat, SSB 140. Ah, il Telsat, come quello che ha... Il Telsat ce l'ha anche Massimiliano. Sì, sì, è di Massimiliano, l'ho preso io, adesso lo sto prendendo. Vai, ci sentiamo dopo, ciao. Ehi, è bellino, molto bello come aspetto. Ok, a dopo, dai, ciao, ciao, ciao. Cos'è sto casino? Oh, buh. Un bordello che sta via. Riprendi Gianni. Un attimino. Marco, lo vuoi fare un affare? Uno scambio con l'S45? Ti propongo un corto Excalibur SSB da base. No, no, niente scambi purtroppo, niente scambi, me l'hanno già proposto. Ma troppo grandi come radio. A me servono i soldi, money. Mi devo pagare l'assicurazione dello scooter. Sai quanto lo stavo dando? Sandro, 150 euro lo stavo dando a Gianni, però lui non va bene. Conta che l'ho pagato 328, quant'era? 329. 150 euro. Funziona, però... non lo so, non mi piace più quell'apparecchio, è una fabbrica di spuri e se lo metto in casa rischio di fare TVI, quello è un apparecchio da macchina, che va bene in macchina o in camion, capito? Capito, ma no, sto apparato, io non posso dire, l'ho avuto quell'apparato che non si chiama, bisogna saperlo, cioè, saperlo usare, perché usarlo non si può niente. Capito, a parte le sue memorie, sempre le sue programmi, ma diciamo che usavo non ci vorrei niente. È molto delicato perché secondo come lo usi surriscalda e potrebbe anche partire. Tutto lì, comunque, Corto Excalibur, non so se lo conosci, ma è un bel passo, Sì, lo so, ma sono anche apparati di 30 anni fa, dai. Non fa. A me io sono interessato ai soldi, boh. Soldi. Sto diventando venale. Vabbè, dai, tu vuoi recuperare i soldi, vabbè, sono tanti soldi, non te li do. Vabbè, dai signore, rimango in ascolto. Marco, ci sei bisogno di porto, cioè. Dimmi, Elio. Dico, se hai bisogno di soldi, che sempre viene per un cover. Ehi, a me metto una parrucca bionda. Quello mi è chi mi carica. Ah, quindi c'è un problema il tuo. Natalì, perché ti interessa? No, stavo vendendo un baracchino un po' performante, ma 150 euro. Natali, tu ce l'hai già i baracchini, tieniteli in tasca i soldi, pigliati un'altra pistola piuttosto. Quello va bene in camion, sai perché? Perché è un apparecchio che spinge forte, no? Però butta anche fuori un bel di spurie, cioè qua ho paura non tanto che faccia TVI, ma che entri tipo nelle casse del computer, come già mi è successo, nei citofoni, quelle cose lì, capito? In macchina va un bisù, spinge un bel, non ha bisogno di... modulati sono 40 watt. In SSB sono 60 watt mi pare, circa, dai, PFB, picco, dovrebbero essere. Ma io fate girare sta maledetta ruota. Gianni, ma non vuoi rispondere? Ma ti senti bene oggi? Sono un po' stanco. Si sente dalla voce già che sei un po'... come diceva nonno, penetidumi un po' giù. Ma hai lavorato mattina e sera? O solo mattina? No, di mattina, ma poi non ho riposato, sono andato a fare la revisione alla moto che mi ha rimasto l'SMS, che la revisione stava per scadere, sono andato a fare la revisione. E poi da una cosa all'altra mi sono piazzato i cosi del bagno, i pezzi del bagno, porta caffeggica, asciugamani, eccetera, eccetera. Ehi, non ha riposato nulla, dai, scelto il giorno che fai roba. Ehi, rifatti stanotte, fatti una bella dormita, va presto. Ehi, aspetta un po'. A sette. Oh, oh, buh. Sale poco. Ah no, sale poco giusto perché. Questo è il trimmer chiuso della M, c'è la metà. Questo sì. L'altro è che ce l'ha aperto. Ok, Eugenio c'è ancora? Tutti morti. Sandro c'è ancora? Tutti morti. Bubu. Aio, chiudiamo anche noi, tanto io sono. C'ho la biocca del dopo pranzo. Valerio c'è ancora? Tutti morti. Elio c'è ancora? Falliti, siete falliti. Mi, Elio almeno è vivo, gli altri sono tutti morti. Ehi, ha detto già mi prendono domani, mi con chi sta tromba di naso, mi. Mamma mia. Marco. Ehi. Ma non organizziamo per sabato questa pizzata, questa mangiata, lo diciamo anche a io, su. Sì, si può fare, però. Oppure che sia di quelle pizzate a crepatura. E lo sapete che io posso mangiare una pizza a tonda e boh, a malapena. Si tratta di quelle pizze che continuano ad arrivare e chi ne mangia? Cioè io mangio pochissimo. Vabbè, però sai già, una volta che mangio la pizza cosa guardo? Gli altri che si ingozzano e devo stare lì, insomma. Vabbè, comunque a me basta mangiare poco, perché poi mi sento male se mangio troppo, capito? Speriamo che non sia un segno questo del naso chiuso, che non mi stiamo vedendo altri accidenti di nuovo. Cioè la mucosa proprio gonfia. Beh, mi sono messo già rinasina varie volte, ma mi si chiude dopo un'ora, mi si richiude di nuovo. Oggi mi sono alleggerito nel vestire, mi. Ho pantaloni più sottili, per non dire stivi. E ho tolto la maglietta, ho tolto quella camicia felpata che mi faceva sudare ovunque andassi. Adesso c'ho una camicia sottile, sottile, quasi stiva. E quindi in casa sento più freddo. E vabbè. Poi sono passato a pagare l'assicurazione alla macchina. E per lo scooter mi hanno detto che è un pasticcio, perché cioè non c'entra che tu l'abbia lasciata ferma la moto. Ho visto anche su internet che come la seconda rata, no? Andava pagata lo stesso. Ho visto anche su internet che siete andati a pagare anche se la lasci ferma la moto, anche se non hai soldi. E mi potrebbe arrivare una cartella di pagamento, lo sai. Poi quella non me l'ha spiegato bene. Poi dovrei fare l'assicurazione da capo, me la fanno pagare molto di più, perché questi tipi sono subentrati all'altra assicurazione che era Vicari, o come si chiamava, Carige. Questi sono subentrati a Carige e però si fanno le regole loro, non ti favoriscono niente. Sono un pasticcio, dai. Era meglio togliersi il cibo da bocca e pagare l'assicurazione. Pasticcio qua. Marco, allora io l'assicurazione la faccio per tutto l'anno, da blocco, vado lì da blocco e poi la faccio ripartire quando voglio io. Quando voglio io vado all'assicurazione e dico da oggi mi faccio ripartire l'assicurazione, questa la farò ripartire pubblica. Io ho un'assicurazione di un anno, me la uso anche due anni. Un attimo, adesso mi è uscito un alieno dal naso, un alieno proprio. però sai cos'è, io non l'ho bloccata, dovevo pagare la rata, però siccome non avevamo soldi ha detto questo mese no, l'altro mese, poi questo mese no, e ormai siamo arrivati quasi all'altra rata, però dice che è scaduta, che bisogna rifarla da nuovo, che mi costerà molto di più. E allora per costare di più me ne vado da un altro, mi metto alla ricerca di qualche assicurazione che mi faccia pagare 200 euro semestrale come era prima, ma non so che ci sono assicurazioni che mi hanno chiesto 650 euro all'anno, 650 euro e anche di più, lo sai, sono matti, c'è un divario tremendo tra le assicurazioni. Non lo so, anche a me. E infatti ho detto che me ne andavo, se non mi facevo la cifra che volevo io me ne andavo, e mi ho fatto 260. Eia, infatti prima alla Carige io gli ho fatto quel discorso, certo, noi abbiamo la macchina assicurata da voi, se lei mi fa un prezzo vantaggioso, intorno alle 200, assicuriamo anche la moto, quello sì, non c'è problema, ma va fatto, dice, il 30% di sconto, era un'offertona, poi sono subestrati questi, come si chiama, Assi Italia, boh, non lo so. E già ho capito che per rifarla, perché è scaduta, vogliono già molto di più. Mi dirà quant'è. Però non va bene. Boh. Vabbè, non tutti ti favoriscono. Vuol dire che me ne cercherò un'altra. Me cerco quella online che paghi pochissimo. Ma per la moto non lo so se le fanno online. Ah, non le fanno. Vabbè, vuol dire girerò un bel po' a chiedere chi mi fa più basso possibile. Ah, quelle che la fanno basso sono la Vittoria, la Liguria, che fanno assicurazioni poco più. Ma fare mai con l'assicurazione HDI, ricordatelo, HDI non può andare mai. HDI? Perché non pagano, capito? Non pagano. E quella là, quella che mi ha buttato giù la moto, ha fatto la denuncia a casa e stavo trovando scuse, che invece che ha detto ha messo a sinistra, eccetera, eccetera, che la cosa non va bene, che forse loro non possono pagare. Allora mi hanno fatto riportare la moto alle iniziali, dall'altra parte la moto non c'ha nessun grafico, lì aveva denunciato che era caduta a destra invece che a sinistra, ma si è sbagliata. Cioè, cattedrale che è caduta su un materasso per non graffiarsi, e la moto è graffiata solo a sinistra, non è graffiata a destra, abbi pazienza. Guarda, uno scherzetto, ma non ho fatto il tram mi ha rovesciato allo stop perché ha stretto troppo, no? E la manopola del freno o la frizione, no, della frizione ha fatto una lunga strisciata sul lato del tram, no? Io ero fermo, c'era una persona dietro e ci ha fatti cadere. Quel bastardo di tramviere è andato a dichiarare, a fare la denuncia cautelativa, dicendo che io, passando col rosso, mi sono scontrato col tram, quando avrebbe fatto segni diversi scontrandomi col tram, capito, che girava. Beh, non è bastato il testimone, nulla, dice, ma il mio cliente ha dichiarato così, io non posso dargli il bugiardo. Questi dell'assicurazione sono dei figli di bagassa, sono tutti d'accordo, lo sai, e quindi mi hanno dato quasi la colpa, non la colpa, il 50% di colpa, capito? Qualsiasi farabutto, basta che dica una versione falsa, e l'assicurazione o non ti paga o ti paga a metà, perché ti dice che non può dare il bugiardo al cliente, il cliente ha dichiarato così, capito? È tutto magna magna, sono dei pigli in culo tutti, capito? Altri liquidatori ti vanno a dire di prenderti i pezzi dal rotamatore, ma stiamo scherzando, che devo andare a raccattarmi i pezzi dal rotamatore. Lasciamo stare, dai, sennò poi bestemmi. Ma è brutto, Marco, che io sono cliente con la stessa assicurazione, quella là. Sta proprio HDI, sono io HDI e D. Quindi, cioè, o perdono l'altro. Chi vado qui. E adesso mi è arrivato il fuso dell'assicurazione, vado in un'altra assicurazione, e magari non parlo di più, non mi lascio più, però non ci vado più alla carica. Che l'assicurazione molto poco seria, io sono serio perché non ne ho fatto manfine. E manfine l'ha fatto in sacronta, che ha dichiarato cosa è fatto. Sì, via. Magari l'ha dichiarato apposta, così non pagano, o pagano a metà. E una volta alle poste in via Alghero, una tipa in retromarcia, boom, ne butta la moto. La moto purtroppo sì, l'ha lasciata dietro la macchina, ma questa non ha guardato gli specchietti o non l'ha vista. La butta a terra, bella strisciando, e poi ingrana la prima e va, e si inanda. No, avevano preso la targa, quelli che erano lì di fronte mi hanno data la targa, però ogni volta non si faceva trovare a casa, era latitante. La gente è sempre così già, la gente è di merda, scusate il termine, ma è così. Ti manderebbero in galera per non pagarti un misero sinistro, lo sai. Per non pagarti un faro rotto, ti manderebbero in galera. È bello che capita la via dietro casa, capita la via dietro casa. Poi si lamentano da fare secondo cacciapa, lì incendia la macchina e si pentica così, capito? Poi si lamentano quando si fanno gli spiriti e le cose. E poi qua, sai quante volte me l'hanno buttata? La moto, la Honda 400, una volta l'ha buttata il vicino che ha il garage sotto di me e non ha detto nulla. Una volta me l'ha buttata qualche anonimo perché era tra le macchine, però le macchine distavano almeno 2 metri l'una dall'altra, eppure uscendo l'hanno fatta cadere. Una volta il tram era dal lato sinistro, no? Parallela, passa il tram come è stretto appena, no? Tutta spallottata, buttata a terra, no? Nessuno si è fatto sentire, lo sai. Per carità, te li raccomando, poi tranvieri mi. Tranvieri sono dei figli di buona donna. Sta entrando la pizza via Cassandretta, sta con la pizzeria Pozzi, e c'era un signore che stava aspettando per vedere la pizza anche lui, poi è arrivata la figlia correndo, era in macchina, papà in faccia ha buttato giù lo specchietto, guarda che si sta fermata la fermata, e lui padre è andato correndo alla fermata e ha detto ma non te ne sei accorto che mi ha buttato giù lo specchietto della macchina, io non ti ho buttato giù niente, ma fa, ma io la denuncio, io cazzo, lei sta ostacolando il servizio pubblico eccetera eccetera, e ha chiamato i carabinieri, questo non cazzo di successo. Ci salviamo per questo microfono. Oh Valerio, va Valerio, forse Eugenio è andato via. Eugenio ci sei? Non ha risposto da poco fa, forse l'ha chiamato la moglie, boh. Eia, io guarda, glielo vuol fare Sandro, magari sabato quando ha un po' di tempo, io glielo potrei fare, gliel'ho detto. Però se Sandro è più vicino gli conviene Sandro. Ma se sei qua glielo facciamo, non c'è problema. No, se non te me lo facciamo. Non proprio, non proprio. Sta preparando una nottata, ragazzi, minchia. Eia. Eia. Ho capito già comunque. Cioè il tram mi ha stretto scendendo in via Lamberto. E sai chi c'era che guidava? C'era uno in prova che stava guardando a destra, stava attento a non rovinare le fronde degli alberi, e a sinistra ha buttato l'ufficiale che c'era con il bar, l'ufficiale, il tranviere anziano che c'era con lui, è lui che ha fatto quella denuncia lì, e mi ha detto quando ci siamo rialzati, poi vediamo se devi pagare il graffio che hai fatto al tram, ma ti vergogni, io l'ho fatto il graffio, capito? Il tram l'ha fatto stringendomi, insomma è andato a dichiarare all'assicurazione che io passando a un rosso mi scontravo il tram, e non è valsa nessuna testimonianza del passeggero, nulla, non gli frega niente, capito? Ecco perché bisogna girare con la telecamera in macchina e moto, capito? Per far vedere come fanno le cose in realtà. Ma lì la moto era ferma, era parcheggiata, parcheggiata, poi dall'assicurazione mi è arrivata la raccomandata che era in pagamento. Dopo un paio di giorni mi è arrivata la raccomandata che praticamente la signora mi ha dichiarato che la moto era caduta a destra invece che a sinistra, che me l'aveva toccata con la parte davanti, la ruota di davanti, invece l'ha toccata con la parte di dietro e la ruota di dietro. Praticamente c'era il cavalletto laterale, come l'ha toccata l'ha fatto scattare, la moto è caduta. Per carità, guarda, per carità, riprendi Claudio. Ma i soldi poi dati te li hanno? Ma cosa? Perché dice che devo avere un testimone. Devo avere un testimone perché la signora dice una cosa e io dico un'altra. E quindi praticamente, allora mi hanno chiamato per vedere la moto e l'hanno vista che la moto, la parte destra, non c'ha nemmeno un graffietto. L'hanno tutta controllata bene, fatta, dice, detto, cosa è caduta? Sopra un materasso. Lei ha dichiarato che è caduta la parte destra, però ho detto, la moto se cade si graffia, è una moto di 200 kg, non è che... E la nostra parte è tutta graffiata. E ho detto, scusi, 2+2 fa 4, se non fosse, anche se fosse caduta la terra sarebbe stata graffiata, allora quella parte. Niente da fare, dice, ma lei dichiara una cosa e quella che dichiara un'altra, cosa faccio? Siete tutti e due lì, cosa devo fare? Ho visto tutto, ma... Purtroppo già, anche se lì, se lì dichiara una cosa non vera, tu puoi portare anche 10 testimoni, l'assicurazione ti dirà sempre, guarda cosa è successo a me col tram, ti dirà sempre che quella persona ha dichiarato così e non può darle della bugiarda, capito come la pensano? Questi assicuratori sono tutti ripigliati, eh? Hai capito? Non gliene frega niente al cliente, anche se sei assicurato tu con la stessa, il cliente non è solo una troia che deve pagare, scusate il termine. Teglia, capito già, non è valso né testimone né niente, vale la dichiarazione che ha fatto, la denuncia cautelare che ha fatto quel farabutto, e così sarà per te, capito? Se no, cazzo, bastava dire, eccomi, ho visto tutto io, ho visto tutto. Ma ascolta, devo sapere una cosa di più, mi ha telefonato questa amica, dice già, di non fare niente, non a denunciare che mamma mia che ti è toccato la moto. Già ci penso io, poi il telefono ti risponde. Cioè, vede il mio numero, conosce il mio numero, quindi non mi risponde. E allora è fatta con malizia la cosa. Comunque vicini, tutti sono così, sono tutti farabutti. Capito? Se ti buttano la moto non hanno visto niente, capito? Anche chi ha visto non è che ti dice mica quello ti ha buttato la moto, nulla. Guarda, c'era una vicina che è una persona veramente seria, era la figlia dell'insegnante mia di religione delle medie. Una volta faceva una manovra e ha fatto cadere la moto, si era rovinata solo la, si era spezzata la manovra, non si chiama la noppola del freno, della frizione. Ha cercato tutti i campanelli, mi ha contattato, ha detto che era dispiaciuta, non se n'era accorta. E praticamente siamo andati dal meccanico e mi ha pagato la manopola del freno, solo quella mi si era spezzata, il resto non c'aveva già cose sue, graffietti. Però per dire già la correttezza di cercare il padrone, di dire, diciamo, si è riconosciuta la colpa, no? Che lei distrattamente facendo manovra me l'ha fatta cadere. È l'unica persona in tutti questi anni che si sia mai premurata di riparare al danno che ha fatto, l'unica, tutti gli altri sono dei farabutti. Lo so, io guarda, una volta uscendo dal lavoro, quando lavoravo ancora di sera, facendo manovra, non ho visto che c'era dietro la macchina, mi sono distratto, e ho toccato la macchina. Ed era di mio collega, sono entrato dentro, e l'ho detto, guarda che ho toccato la macchina, ma poi gli danno, ho detto, no, appena appena. Fatela vedere la carrozzeria e dici quanto è che la pago, se no ti faccio la circolazione. Era 100 euro, ve l'ho dato, praticamente era solo una macchiatura, non c'era né grasso né nulla, poi le carrozzerie c'è una specie di frettosa che la tira pulire, non si vede. Meglio. Vai Claudio, riprendi, e tu con gli assicuratori, che rapporti hai? Io. Sono qua, ti sto ascoltando. E non rispondi, ma ti fa male la gola? Un pochino sì oggi. Un pochino sì, forse sto approfittando troppo. Dovresti parlare meno. dovresti uscire con la sciarpa, perché questi colpi di freddo te lo peggiorano. La sciarpa tu la usi, no? Poco. Ehi, cerca di coprirlo. Poi quando parli con noi parla piano, proprio quasi sottovoce, tanto tu hai la... quello apparecchio spinge, quindi anche se parli così, piano piano, si sente lo stesso. E mi sto gridando. Sono a 50 cm dal microfono, vado rilassato una poltrona. Vega. Ebbè, Natalinus, ci sei ancora? Ma tutti morti, tutti spariti, sparito Gianfranco, era sparito Valerio, Eugenio, tutti spariti di botto. Ah, ok, va bene. Elio, ci sei ancora? Ciao Valerio, ciao, alle prossime. Caspita, Valerio Santiago 9, e quanti watt sta usando? 9-10 qua Valerio, quanti watt sta usando? 50 watt, 40 watt, sta usando 140. Ottimo, ottimo. Comunque già, per i watt che dà sono ottimi, ottimi. Nemmeno Roberto arrivava così bene. Roberto Tex. Sì, Valerio, un ottimo segnale, ottimo, ottimo. No, ho capito, ce l'avevamo con gli assicuratori, Claudio, che sono dei gran farabutti, che non ti favoriscono mai se ti devono favorire. Tu sei solo un cliente che deve pagare le rate, boh, capito? Poi i liquidatori sono ancora più farabutti di loro. Le assicurazioni tirano l'acqua sul mulino, caro mio, capito? Però quella è una grandissima farabutta. Perché se il danno l'ha fatto lo doveva riparare, capite? Tutto qua. Va bene, va bene. Dai, io comunque vi saluto, sono già le 8, signori, dai. Gianni, vai a portare il cane che sta arrivando una tempesta. Marco, ti saluto, ciao anche a tutti quelli che sono ascolti sui canali 10, anche Natalino. Buon fine serata a tutti, dai, chiudo e niente, ci sentiamo domani perché c'è una viola, se no è un casino. Ciao a tutti, buonanotte, a domani. Ehi, ciao Claudio, dai, ci sentiamo domani. Allora dite addio alla mia antenna che stanotte se ne vola, speriamo di no. Ciao Claudio, dai, di nuovo, buonanotte, buon tutto. Gianni, sì, vai a portare il cane? Vai, altri 10 minuti. Figliale. Esattamente, se vuole che devi fare cosa la chiudere. Sì, va bene, ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo, avete parlato in due. A domani, ciao, ciao, ciao. Ciao. E tu già vai a portare il cane? Sì, fra 5 minuti. Dove sono riposato una volta? Sono stressato, sono mal stanco. Perché ho fatto tutta una tirata. Sono uscito dal lavoro, ho fatto da mangiare, poi ho portato giù il cane, poi sono andato subito a portare la moto alle 3:30 a fare il corso, come si chiama, a fare la revisione. Poi quando sono andato dalla revisione, già che sono in giro, vado dai cinesi e compro i pezzi per il bagno, perché c'avevo che tappare la carta igienica che ne usciva, si staccava, facevo quelle avventose, a me non mi piace. E ho fatto i buchi, tutto quanto, ho messo tutto, ecco, dalla sera facendo questa roba, perché? Perché c'era uno che era difettoso, non teneva a casa, ho dovuto fare mille modifiche, prova che ci riprova, poi sono riuscito a metterlo come volevo io, là. E niente. E poi, dopodiché, mi sono messo a posto tutta la roba della spesa che ho fatto, perché poi sono andato da lui, ho fatto la spesa, mi sono messo a posto tutta la spesa. Che ho messo a posto la spesa, mi sono tagliato 5 minuti che ci sono andati, verso le 6. Quindi ho fatto tutto una cosa dietro l'altra. Eia, è un po' piena come giornata, io volevo uscire nel pomeriggio, volevo andare a comprarmi pantofole nuove, che le mie hanno tirato le cuoia, proprio pantofole, quelle belle calde. Da Auchan prendere anche uno stura lavandino, di quelli più morbidi, perché il nostro è rigido, c'è una molla così rigida e particolare, c'è una molla dentro, quando le mani bagnate dall'acqua ti scivola, non riesci a far forza, allora ne volevamo più morbido. Invece poi non sono uscito, ma manco a parlarne, ormai lì esce raramente in Bersend. E vabbè, poi non ne ho avuto voglia nemmeno io e me ne sono rimasto a casa, dai. E domani si vedrà. Io per esempio ho riposato nel pomeriggio, c'è anche la gatta vicino, le sta piacendo il mio letto, lo sai, alla gatta, quella più cicciottella, e prende possesso del letto e io mi devo mettere in posizioni assurde per fare stare comoda lì. Quindi mi ero anche riposato, potevo uscire, solo che ogni volta, ragazzi, è una lagna già, ogni volta attorno non c'è parcheggio, faccio il giro, non c'è parcheggio. Se avessi lo scooter, andrei con lo scooter, me ne frego del vento, mi metto 1000 sciarpe, mi metto 2 giubbotti, però almeno in moto è più comodo, basta che non piova, l'importante è che non piova. Ah, bene. Comunque già si trova, dai, se magari fai un giretto con i trucchi, certo, però proprio sotto casa, puoi andare nei dintorni, qui a Pocitella, via Ita, lì, che fa un pezzettino a piedi e via. Se non c'è il garage, però non c'è il posto macchina, il posto macchina guarda che sembra così, ma vuol dire un bel cambio il cancello dentro la macchina. Ehi. Se non lo trovo qua sotto io vado o in via Savoia o in via Le Mameli, ma certe volte è allucinante. Poi in questa via sono tutti mezzi cadaveri, molti stanno tutto il giorno a casa, tutti i giorni e tutto il giorno a casa, non escono per giorni, salvo che non vadano a fare la spesa o al lavoro. C'è gente che a parte il lavoro vive a casa, mi c'è la macchina sempre tutta la lì. Capito, tutta la lì, è una via di zombie, è questa, lasciamo perdere, no, è sempre stata una via di zombie, va bene, ok, già, dai, se stai andando, ti lascio andare, io, se non sono in ritardo mi guardo con il telegiornale, ok? Sì, è in ritardo il telegiornale, sono le 8, in questo momento, là. Una cosa, ho portato un po' di una mezz'oretta, io sto facendo per meglio, dai. Eia, vabbè, allora vado, dai. Tu approfittane adesso così poi ti puoi mettere a letto. E vabbè, prima a cenare, poi ti puoi bello sbragare e dormire. Tu a che ora prendi sonno di solito? Sì, sta, dopo ti anche non è mezza, alle 2 di prego. Ah, cioè anche tu non è che alle 10 ti addormenti, no? Ah, ho capito. E io sono un po' duretto. Certi giorni però mi viene il sonno naturale. Proprio mi casco dal sonno. Allora sì. Certi giorni invece è dura, eh. Certi giorni sono ansioso, nervoso, non riesco a rilassarmi. Allora ci vuole l'aiutino. Ma alla fine l'aiutino non fa niente, mi. Non serve a niente l'aiutino, no? Non ti fa dormire di più. Ok, già, dai, ci sentiamo domani. E buonanotte, dai, buona cena, buon tutto. Sì, io Marco, pensato. No, invece c'era così, mi addormento, guardo il televisore, presto, e poi quando mi risveglio non mi addormento più. Ecco, anche così. Io certe volte mi addormento anche al primo film. Poi, a mezzanotte, tipo vado in bagno, mangio e non mi addormento più, capito? È un meccanismo strano. Ok, dai, a domani, ciao a tutti gli ascoltori, dai, ciao. Ciao Marco. Ciao Marco, ciao Gianni, dai, io mi sto ascoltando, non ne ho voglia stasera, mi sto un po' pizzicando la gola. Ci sentiamo domani, ragazzi. Ciao. Sì, mi ho preso un diploma adesso. Prendo freddo a portare il cane, a fare lavoro. Ci sentiamo, ciao. E io, ciao, buonanotte a tutti, dai. Ciao Nathalie, ciao, buonanotte. Nathalie, ti ho chiamato prima e non ha risposto nemmeno tu. No, qua arrivi forte, te ora avevo rilanciato e non ha risposto, dai. Ehi, vabbè, capita, poi sono spariti tutti gli altri di botto. Vabbè, dai, a domani, dai. Ciao, ciao, ciao.